Grazie, ringrazio molto per questo invito. Spero di riuscire in un tempo relativamente breve a dare qualche indicazione che possa essere interessante per un dibattito. Dico subito che la nostra Costituzione, nelle disposizioni che riguardano l'eguaglianza tra i generi, è una Costituzione che ha dentro di sé sicuramente ha un'idea di differenza. Non mancano anche delle tracce di stereotipi, naturalmente, perché nel momento in cui, per esempio, nell'articolo 29 si parla dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi nei limiti che servono a garantire l'unità della famiglia, oppure quando si parla della essenziale funzione familiare della donna nell'articolo 37, è chiaro che queste espressioni ci indicano un clima culturale che era quello degli anni 1946-1947, e quindi ci sono anche tracce, diciamo così, di una tracce che derivano da una condizione particolare femminile. Però queste tracce, secondo me, sono meno importanti e meno significative invece degli aspetti innovativi, come dimostra non solo l'esegesi del testo costituzionale, ma soprattutto dimostra quello che è accaduto dopo sulla base delle norme costituzionali, quello che per esempio ha potuto fare la Corte Costituzionale, alcune sentenze di particolare rilievo che hanno anticipato addirittura delle riforme fondamentali in materia di diritto di famiglia, in materia di cittadinanza dei coniugi, eccetera. Quindi è un testo costituzionale fatto da un Pietro sobrio, da un Pietro, sì, ma sobrio, ma sobrio. Ecco. Con, sì. Perché appunto mi colpivano, il, spero che non sia di troppo disturbo, ma mi viene di interloquire, cioè la sostituzione di alcune formule sempre nel dibattito dei costituenti, per esempio la famosa articolo 51, sì, per il quale tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti, sì, dalla legge. Questa formula sostituisce una precedente che diceva conformemente alle loro attitudini. Esatto, e fu eliminata nel corso della discussione proprio perché si temeva che una dizione di quel tipo avrebbe riproposto, diciamo così, quelle discriminazioni e quegli stereotipi legati a condizioni, insomma, che erano ben note. Io quindi pensavo di impostare il mio discorso in questo modo, poi forse non riuscirò a dire tutto, ma insomma, anzi mi scuso in anticipo per il fatto che non riuscirò ad approfondire, che dovrò necessariamente dare così delle pennellate, ma sperando che poi questo possa suscitare una riflessione. Io volevo appunto prima fare alcune osservazioni su come la differenza di genere è contenuta nel quadro costituzionale e come questo appunto poi abbia avuto degli esiti molto concreti, per esempio sulla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che in una condizione in cui il legislatore tendeva a essere molto statico e conservatore su alcune questioni di grandissimo rilievo, la giurisprudenza costituzionale ha potuto, proprio utilizzando le disposizioni della Costituzione, invalidare una legislazione vigente che era ancora fortemente discriminatoria e porre le premesse quindi per un intervento legislativo che tenesse conto di queste interpretazioni del testo costituzionale fornite dalla Corte, e questo è accaduto. Poi volevo, detto questo, perché credo che così il retroterra costituzionale debba essere la base del discorso, volevo soffermarmi proprio su questa tematica del perché è importante chi ci rappresenta, chi sono i nostri rappresentanti. Ed è un tema questo molto difficile in relazione anche alle questioni della differenza. Dico anch'io per inciso, come te credo di avere forse fatto un percorso simile in ambito giuridico, quando ho cominciato a occuparmi di questi temi all'inizio degli anni 90, io ero estremamente critica su interventi legislativi in questa materia e timorosa per varie ragioni che poi magari... Poi mi sono convinta che ha ragione la Lorenza Carlassare, che è la mia maestra, con lei ho iniziato gli studi di diritto costituzionale, e lei molto laicamente, diciamo così, semplicemente dice: qui servono delle norme antimonopolistiche. Cioè, noi dobbiamo renderci conto che ci troviamo in una situazione di monopolio, e come in tutte le situazioni di monopolio non è mai il monopolista che da solo si, diciamo così, libera della sua posizione dominante, ma è necessario che ci siano degli interventi che lo obbligano a farlo. E quindi forse poi si potrà discutere su come possono essere, come formulate queste norme antimonopolistiche, quale natura debbono avere, anche su questo ci soffermeremo. Però anch'io ho fatto questo percorso, credo che sia la realtà che ci impone di fare questo percorso. Quindi volevo parlare appunto di questo e parlare di una cosa che è avvenuta di recente e che secondo me è importante. Una sentenza della Corte Costituzionale dell'inizio di quest'anno, la numero 4 del 2010, che riguarda ancora una volta, questa volta con una grande apertura, il tema delle misure antidiscriminatorie inserite nella legislazione elettorale, che è un tema molto controverso, su cui la Corte ha cominciato a pronunciarsi alla metà degli anni 90 e ha anche cambiato molto il suo orientamento. Questa sentenza, secondo me, è molto interessante, dice delle cose interessanti, quindi volevo commentarla un momento con voi e anche sottolinearvi che ormai questo, diciamo così, movimento, questo fermento legato alla necessità di intervenire anche a livello legislativo o comunque a livello normativo, riguarda ormai anche pronunce della giurisprudenza non costituzionale. Per esempio, ci sono recentissime ordinanze e sentenze di giudici amministrativi, in particolare del TAR della Puglia, che su questo pare che insomma è molto sensibile, che riguarda la composizione paritaria delle giunte nei comuni, con un intervento molto significativo del giudice amministrativo, che addirittura ha annullato delle delibere di nomine di giunte perché non erano rispettose delle norme antidiscriminatorie contenute nello Statuto Comunale. Quindi ormai è una tematica che comincia a avere una sua solidità giuridica, e credo che sia bene discuterne. Naturalmente io limiterò il mio discorso al tema della rappresentanza politica, quindi alla presenza delle donne nelle assemblee elettive ai diversi livelli. Possiamo parlare del Parlamento italiano, del Parlamento europeo, dei consigli regionali, provinciali e comunali, ben sapendo che la tematica non è limitata a questo e che oltretutto che la parità non è un fatto puramente e brutalmente matematico, ma è un qualcosa di ben più complesso. E vi richiamo quindi quello che normalmente si dice a livello di Unione Europea, cioè la tematica non è solo quella della presenza delle donne elette nelle assemblee appunto rappresentative, ma è la presenza delle donne nei luoghi della decisione, nei luoghi decisionali. Quindi è una tematica più ampia che riguarda anche i governi nazionali e locali, ma riguarda i sindacati, riguarda i partiti, riguarda i consigli di amministrazione delle imprese pubbliche e private, riguarda le organizzazioni dei datori di lavoro, riguarda tutti i luoghi in cui all'interno di una società si assumono delle decisioni. Quindi è una tematica ben più ampia della semplice presenza nelle assemblee elettive. Però è vero che la presenza nelle assemblee elettive ha delle valenze pratiche e simboliche che in un qualche modo la rendono particolarmente significativa. Quadro costituzionale. Anche tra negli studi costituzionalistici del nostro paese ormai si fanno anche dei ragionamenti su una lettura di genere della Costituzione. Uno dei più recenti e secondo me interessanti è di Barbara Pezzini, che è una costituzionalista dell'Università di Bergamo e che si occupa molto di questi temi, che ha sottolineato come nella Costituzione ci sia proprio un rovesciamento dei rapporti di genere, nel senso che esiste un principio di parità, e lei dice, Barbara Pezzini, un principio di antisubordinazione, di parità, di eguaglianza, di antisubordinazione, che in un qualche modo storicamente si lega al fatto che, come tutti sappiamo, l'Assemblea Costituente è stata l'occasione in cui per la prima volta le donne hanno potuto esprimere il voto politico. E quindi, diciamo, già nella fase della Costituzione provvisoria, quando ancora appunto operava l'Assemblea Costituente, il riconoscimento dei diritti politici delle donne segna l'ingresso delle donne nella sfera pubblica, e questo costituisce una novità fondativa del nuovo ordine costituzionale. Non dobbiamo dimenticare, io su questo ho fatto uno studio che ho portato anche a Gabriella e l'ho trovato molto interessante occuparmi di questo, e mi rifaccio a quello che tu dicevi prima, cioè che, per esempio, se voi pensate allo Statuto Albertino, 1848, non c'era nessuna esclusione esplicita delle donne dai diritti politici, eh? Il discorso era quello, cittadini, no? Regnicoli, in quel caso, l'articolo 24 dello Statuto, tutti i regnicoli godono ugualmente dei diritti civili e politici. Non c'era nessuna esclusione delle donne. Il tema era quello che tu richiamavi. La nozione di cittadino, che ci proviene anche dall'esperienza rivoluzionaria, è una nozione falsamente universalistica, che sembra richiudere in sé un universalismo di diritti, invece identifica il maschio bianco proprietario, no? Molto, molto chiaro questo. E che fosse così, non era così solo in Italia. Se noi guardiamo le costituzioni, molte delle costituzioni ottocentesche di altri paesi europei, quasi sempre non c'era un'esclusione esplicita. Si parlava dei francesi, i prussiani, i cittadini, però era sempre interpretato nel senso che c'era una consuetudine, una tradizione interpretativa del diritto pubblico che escludeva radicalmente le donne dalla sfera pubblica. In Italia, nel 1906, si tentò infatti di arrivarci in via giudiziaria, con il movimento anche di Anna Maria Mozzoni, eccetera, e forse molte di voi sapranno che una corte d'appello, la corte d'appello di Ancona, aveva detto sì e aveva dato ragione, no, a queste donne che avevano chiesto l'iscrizione nelle liste elettorali, dicendo: l'articolo 24 dello Statuto non ci esclude, la legge elettorale vigente, che era quella del 1895, a sua volta non conteneva alcuna esclusione esplicita, paghiamo le tasse, no taxation, eccetera. E la Corte d'Appello di Ancona, presieduta da Lodovico Mortara, che era un grandissimo giurista, diede ragione. Però fu immediatamente cassata dalla Corte di Cassazione, e comunque tutte le altre corti di Venezia, di Firenze, di Napoli, che erano state investite da questo problema, dettero una risposta negativa. Quindi quella strada si rivelò sbarrata, diciamo, però fu un sintomo molto interessante di una... purtroppo non ho tempo di soffermarmi, posso dirle che non erano motivazioni di ordine giuridico, ma erano motivazioni di ordine tradizionale e consuetudinario. Anzi, quelle sentenze sono un repertorio di stereotipi veramente impressionante. Ecco. Che questa fosse la situazione, cioè un'esclusione implicita, noi lo capiamo molto bene se andiamo a leggere le due norme della Costituzione che riguardano il diritto di elettorato attivo e passivo. L'articolo 51, il diritto di elettorato passivo, cioè la possibilità di essere candidati e di essere eletti, se voi lo leggete, parlo adesso naturalmente della Costituzione vigente, dice: tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici, alle cariche elettive, eccetera. E l'articolo 48, che invece riguarda l'elettorato attivo, cioè la possibilità di votare i propri rappresentanti, si apre così: sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Allora si potrebbe dire: ma che bisogno c'era di dire dell'uno e dell'altro sesso, uomini e donne, nel momento in cui si diceva tutti i cittadini? Eh no, perché questo era il segno di una storia che fino a quel momento c'era stata. Ed è interessante notare che di questo c'è una traccia importante in una sentenza della Corte Costituzionale, a 422 del 95, dice: potrebbe apparire superflua, in questo caso parla dell'articolo 51, la specificazione dell'uno e dell'altro sesso, essendo di per sé sufficiente l'espressione tutti i cittadini. Ma è invece comprensibile, dice la Corte Costituzionale, che i costituenti, così come già nell'articolo 48 avevano ribadito sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, abbiano voluto rafforzare in riferimento agli uffici pubblici e alle cariche elettive il precetto esplicito dell'eguaglianza fra i sessi. Va tenuto conto del contesto storico in cui i costituenti operavano, le leggi vigenti escludevano le donne da buona parte degli uffici pubblici e l'elettorato attivo e passivo, concesso loro nel 1945, era stato per la prima volta esercitato in sede politica con l'elezione dell'Assemblea Costituente. Quindi questa esplicitazione negli articoli 48 e 51 è molto interessante da questo punto di vista. Ma se voi pensate anche alla norma per eccellenza sul principio di eguaglianza, l'articolo 3, e mi riferisco in particolare all'articolo 3, primo comma, con i divieti di discriminazione, voi leggete che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, questa è la prima categorizzazione, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Ora, qui vediamo che sono il fatto che il sesso sia la prima, diciamo, delle categorie segnalate, non è solo un fatto, certamente non è casuale e non è nemmeno, come dire, un fatto che segnali semplicemente che quella era un'esclusione evidentissima, palese, un'esclusione che tagliava trasversalmente, diciamo, tutte le altre esclusioni. Ma c'è di più, perché queste categorizzazioni, e adesso lo dico molto brevemente, sottintendono delle logiche diverse, ma quella del sesso le sottintende tutte e due, quindi è anche particolare da questo punto di vista. Su questo ci sono degli studi delle teoriche della differenza, per esempio di Adriana Cavarero, che l'hanno messo in luce molto correttamente, secondo me. Allora si dice, per esempio, dove si dice non si può discriminare sulla base di razza, e naturalmente l'utilizzazione di questo termine oggi può dar fastidio, ma noi dobbiamo pensare che quello che avevano in mente erano le leggi razziali, o meglio razziste, del 1938. Quindi razza, lingua, religione, opinioni politiche, qui abbiamo una logica di tutela e di conservazione. Queste sono caratteristiche che devono essere tutelate e conservate. Le condizioni personali e sociali, invece, implicano una logica di miglioramento e di neutralizzazione. Cioè, è chiaro che quando l'articolo 3 fa riferimento alle condizioni personali e sociali, intende dire condizioni personali e sociali di discriminazioni di fatto, o di difficoltà, o di minorità, che non devono comunque, come dire, e non possono, anzi, fondare delle discriminazioni. Ma il sesso, invece, dentro ce le ha tutte e due. Perché è una differenza originaria da conservare e da tutelare, ma è anche una differenza di condizioni personali e sociali, cioè condivide le caratteristiche di entrambe queste categorie. E questo poi noi lo capiamo bene se andiamo a leggere le altre norme della, adesso non mi posso soffermare ovviamente, ma le altre norme della Costituzione, per esempio l'articolo 31, la protezione della maternità, l'articolo 37, la pari, diciamo, l'eguaglianza nell'ambito del mercato del lavoro e la parità di retribuzione. È chiaro che qui si vuole tutelare una differenza originaria. Siamo diversi, però dobbiamo essere trattati in maniera paritaria. E vi dicevo prima, nell'articolo 37 c'è anche quel riferimento alla essenziale funzione familiare, che letto oggi noi lo vediamo come qualcosa di in qualche modo superato, però in quel momento, cerchiamo di collocarlo storicamente, ha a che fare con una differenza femminile. Però proprio gli articoli che vi dicevo prima, il 51 e il 48, elettorato attivo e elettorato passivo, ci ricordano che è anche una differenza di condizioni personali e sociali che devono essere superate. Quindi, diciamo così, nel testo costituzionale la differenza come valore da difendere, ma anche come elemento che non può fondare discriminazioni, ma anzi può fondare azioni positive, perché poi il secondo comma dell'articolo 3 è molto chiaro su questo e la Corte lo ha anche detto, è presente in maniera molto chiara. Nelle evoluzioni successive poi è diventato ancora più chiaro questo discorso, perché ricorderete che nel 2003 l'articolo 51 della Costituzione è stato revisionato ed è stato introdotto questa piccola espressione, però piuttosto significativa, a tal fine, cioè per garantire un uguale accesso di uomini e donne agli uffici pubblici e alle cariche elettive, la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. E questa è una revisione del 2003. Due anni prima, nel 2001, era stata revisionata anche la parte della Costituzione che riguarda le regioni ordinarie e abbiamo l'articolo 117, anche questo molto importante, che riguarda il livello regionale, settimo comma, se lo ritrovo, è l'articolo 117, ecco, 117 della Costituzione, settimo comma: le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. Nello stesso anno, sempre nel 2001, una revisione costituzionale ha toccato anche gli statuti delle regioni d'autonomia speciale, inserendo una norma non identica ma analoga a questa. È molto forte il 117 settimo comma nell'espressione la piena parità tra uomini e donne, quindi pone l'obiettivo di una società duale, se le parole hanno un senso, cioè una società segnata in tutti gli ambiti dalla presenza dei due sessi. Vi dicevo che questa impostazione costituzionale, che a mio avviso è molto interessante, perché se pensiamo che la Costituzione è stata fatta alla fine degli anni 40, a me sembra che ci siano degli elementi di attualità e di modernità, non solo in questa parte, in generale nella Costituzione italiana, ecco. Sì, molto sorprendenti e anche forieri di interventi molto importanti sia della Corte Costituzionale che del legislatore. Ecco, su questa base, come vi dicevo, la Corte Costituzionale ha potuto intervenire e ha potuto incidere su quelle parti dell'ordinamento che non si erano assolutamente adeguati alla nuova disciplina costituzionale. Per esempio, vi ricordo solo alcune sentenze famose. Voi sapete che nel nostro ordinamento, che è a Costituzione rigida, le leggi devono rispettare i principi costituzionali. Se le leggi sono in contrasto con i principi costituzionali, possono essere annullate da un organo apposito, appunto, che si chiama Corte Costituzionale. Ecco, per esempio, nel 1969, furono ritenuti illegittimi quegli articoli del codice penale che punivano più gravemente l'adulterio della moglie di quello del marito, perché ricordiamoci che fino al 1969 noi ci siamo tenuti la punizione molto più grave dell'adulterio femminile rispetto a quello maschile. E l'ha fatto la Corte sulla base dell'articolo 29 della Costituzione, che esige che la disciplina giuridica del matrimonio contempli eguali obblighi ed eguali diritti per l'uomo e per la donna. Quindi, diciamo, un'applicazione diretta dell'articolo 29 che ha portato a invalidare questa norma. Ma pensiamo anche alle sentenze con cui, per esempio, una pronuncia del 75, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato invalida una disposizione della vecchia legge sulla cittadinanza del 1912, in base alla quale la donna italiana sposata a uno straniero perdeva automaticamente la cittadinanza italiana indipendentemente dalla sua volontà. Quindi, se tu sposi uno straniero, esci dalla nostra comunità e diventi altro da noi, e questa è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte. Naturalmente la sentenza 27 del 75 sull'interruzione volontaria della gravidanza, che tutti conosciamo e che ha anticipato la legge 194 del 78. Numerosissime sentenze, un numero veramente grande in materia di tutela delle lavoratrici madri, del divieto nelle discriminazioni nell'accesso al lavoro, eccetera. Ma poi c'è tutto il grande filone che a me interessa in particolare modo anche per il discorso di oggi, che è quello dell'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive e anche in materia di azioni positive. Allora, per esempio, per quanto riguarda l'accesso ai pubblici uffici, abbiamo importantissima una sentenza del 1960, la numero 33, con cui fu dichiarato incostituzionale una disposizione del 1919 ancora vigente che escludeva le donne da tutti gli uffici pubblici che comportassero l'esercizio di diritti e potestà politiche. 1960. Sulla base poi di questo intervento, nel 1963 si intervenne la legge numero 66 che aprì per esempio le porte della magistratura alle donne. Prima erano porte chiuse, quindi è dal 1963. Nel 2000 è stato aperto anche l'accesso alle forze armate su base volontaria. Poi abbiamo tutte le sentenze che riguardano le azioni positive in ambito, per esempio in ambito di imprenditoria femminile, c'è una sentenza molto importante del 93, e poi ci sono tutte quelle del 95, del 2003, del 2010 che riguardano le cosiddette azioni positive in materia elettorale, anche se qui forse, come vi dirò, l'utilizzazione del termine azione positiva è improprio perché non è esattamente la stessa cosa. Detto questo, volevo adesso proporvi un breve ragionamento sul perché è importante chi sono i nostri rappresentanti. Perché le donne dovrebbero essere più numerose nei luoghi in cui si assumono le decisioni politiche. Se una più ampia presenza femminile potrebbe davvero determinare dei cambiamenti significativi. Queste sono domande molto ricorrenti nel dibattito anche internazionale, e come io ho cercato di riassumere brevemente nel libro appunto che ho scritto per il Mulino, in realtà si potrebbe forse rispondere semplicemente, e come ha risposto il Consiglio d'Europa in una raccomandazione del 2003, che lì appunto io cito, dove si dice che è semplicemente una questione di giustizia. Il Consiglio d'Europa dice: un'equilibrata presenza di donne e uomini nei processi decisionali è un'esigenza di giustizia evidente per se stessa e rispetto alla quale non è necessario addurre giustificazioni ulteriori. In realtà però il dibattito c'è ed è un dibattito anche molto acceso, diciamo, e quindi può essere interessante prendere in considerazione gli argomenti che vengono utilizzati, e molti di questi argomenti che io adesso vi citerò non riguardano solo il dibattito dottrinale, ma riguardano anche risoluzioni del Parlamento europeo, raccomandazioni e decisioni del Consiglio, anche cioè documenti giuridici in senso stretto, e che si sono susseguiti più o meno a partire dal 1988. Allora, così per classificarli potremmo dire che c'è un primo gruppo di argomenti di carattere empirico, no? Allora, per esempio, si fa leva sul contributo specifico delle capacità e delle sensibilità femminili. Si dice, si parla dell'utilità e dei vantaggi per la società nel suo insieme di una maggiore presenza di donne nelle istituzioni politiche. Si parla del carattere complementare delle qualità specifiche dei due sessi, della necessità che gli interessi delle donne siano presi in considerazione, della ridefinizione di priorità con l'inserimento nell'agenda politica di temi nuovi e l'elaborazione di politiche di migliore qualità in grado di rispondere meglio ai bisogni di una popolazione composita e variegata. Poi ci sono invece degli argomenti di carattere più propriamente teorico che attengono alla qualità della democrazia. Cioè, si dice, lo squilibrio dei sessi nelle assemblee elettive rende queste assemblee meno rappresentative della società e costituisce una lesione dei principi democratici. Il superamento di questo squilibrio dunque diviene una condizione di democrazia, e gli ambiti coinvolti, come vi dicevo prima, non sono solo poi le assemblee elettive, ma sono gli organi di governo, i partiti politici, i sindacati, le organizzazioni dei datori di lavoro, tutti i luoghi in cui insomma si assumono decisioni. Ecco, io a questo proposito ho una mia opinione che è sicuramente discutibile e spero che possiamo discuterla, comunque ve la posso esprimere purtroppo in maniera molto sintetica. Io credo che tra i diversi argomenti che vi ho indicato, considerati, sia necessario accostarsi con grande prudenza a quelli che fanno riferimento ad una sorta di essenzialismo femminile. È un essenzialismo della differenza sessuale, perché l'insistenza sulle specifiche capacità, le specifiche sensibilità, sul fatto che le donne possono dare voce agli interessi del loro genere, possono sovrapporsi anche involontariamente con concezioni pericolose e superate delle virtù femminili. Ecco, non dimentichiamoci che, come ha messo in luce molto bene Bianca Beccalli, la teoria della differenza femminile è stata storicamente utilizzata sia in senso progressista che in senso fortemente regressivo. Perché, per esempio, in campo progressista si diceva che le donne dovessero essere rappresentate in politica in quanto portatrici dei valori fondamentali della famiglia e della cooperazione, parlo ovviamente per esempio dell'Ottocento, ma i conservatori dicevano a loro volta, proprio in nome di quei medesimi valori, che le donne dovevano restare fuori dalla politica e confinate nella sfera del privato. Quindi la teoria della differenza soffre sotto questo profilo, io parlo dei suoi profili giuridici, non mi permetto di estendere la mia riflessione ad altri settori che non mi competono, sotto il profilo giuridico soffre di un'ambiguità originaria, che diciamo è porre l'aspetto sull'elemento identitario del femminismo, finisce per mettere in discussione il primato della cultura sulla natura, diciamo così, il primato della libertà sulla necessità naturale, eccetera. E quindi io ritengo che, da un punto di vista giuridico, sottolineo, gli argomenti più convincenti siano quelli che fanno leva sulla possibilità di intervenire sulla determinazione dell'agenda politica, perché è di questo che la rappresentanza politica si occupa. Allora, sotto questo profilo, per esempio, io trovo estremamente interessanti le posizioni di una studiosa anglosassone, Anne Phillips, la quale sottolinea come la funzione rappresentativa, cioè la funzione del rappresentante politico, sia caratterizzata, oltre che dalla responsabilità verso gli elettori, ricordiamo che lei parla avendo in mente un sistema uninominale maggioritario, quindi fa un discorso che è molto ritagliato, diciamo, sul caso anglosassone, però dice cose che possono essere rilevanti anche per noi. Quindi dice, il rappresentante politico da un lato ha un vincolo non formale, ma insomma di responsabilità nei confronti degli elettori, però l'eletto ha anche un grande spazio di autonomia decisoria, uno spazio ineliminabile di autonomia decisoria, perché nel corso del suo mandato si proporranno degli eventi, delle necessità, dei problemi assolutamente nuovi a cui bisognerà dare delle risposte. E dice la Phillips, è proprio laddove si decide in autonomia, laddove la rappresentanza mostra tutta la sua dinamicità, che assumono particolare importanza l'elemento personale, le caratteristiche individuali e culturali e quindi anche l'appartenenza di genere dei rappresentanti. Le donne, proprio perché sono state a lungo escluse dai luoghi decisionali, saranno probabilmente in grado di portare nuove idee e nuovi temi anche lontani dalle priorità politiche consuete. Anche per esempio una studiosa americana come la Young dice qualcosa di analogo, dice che i gruppi sociali e quindi anche il gruppo sociale delle donne esistono in quanto i loro membri condividono l'esperienza di strutture sociali, diciamo così, che li rendono meno favoriti o addirittura oppressi rispetto agli altri. Quindi è ipotizzabile che gli appartenenti a un gruppo, diciamo così, discriminato di fatto, condividano alcune prospettive comuni, un modo di vedere le cose non derivante da un'essenza, da un'identità, ma dal fatto che si condividono delle relazioni strutturali di gerarchia e di potere simili fra persone che appartengono a quel gruppo. E allora, dice la Phillips, sarà molto difficile separare quanto deve essere rappresentato da chi deve rappresentarlo. Ecco perché la sua proposta, che è quella della cosiddetta politica della presenza, fa leva sulle quote liberamente scelte dai partiti politici, che sono qualche cosa che a noi non darebbe, dal punto di vista giuridico, non dà alcun problema. Cioè nel momento in cui i partiti, nella loro autonomia organizzativa, che nella nostra Costituzione è garantita dall'articolo 49 Costituzione, decidono di autonomamente, appunto, di darsi delle regole paritarie al loro interno, come per esempio avviene nei partiti scandinavi storicamente, ma anche in altri partiti ormai, questo anzi è una strada che la Corte Costituzionale fin dall'inizio aveva suggerito, ma i nostri partiti sono abbastanza refrattari. E quindi in realtà noi ci dobbiamo porre il problema degli strumenti giuridici, cioè se è possibile utilizzare degli strumenti giuridici per ottenere un riequilibrio della rappresentanza. E qui vengo all'ultima parte del mio discorso. La questione in Italia è stata molto controversa e molto dolorosa, diciamo, e a tutt'oggi non possiamo assolutamente dire che la situazione sia brillante sotto questo profilo, però cominciano a esserci degli elementi interessanti e soprattutto comincia a esserci una sensibilità molto forte a livello del giudice costituzionale, come vi dicevo prima, anche di altri giudici, per esempio dei giudici amministrativi. Io partirei da quella sentenza recentissima di cui prima vi facevo cenno, la numero 4 del 2010 della Corte Costituzionale, per commentarla con voi anche alla luce delle novità che propone, perché non è la prima volta che la Corte viene chiamata a pronunciarsi su questi temi, lo ha fatto una prima volta nel 95 con una posizione piuttosto di chiusura, poi è cominciata un'apertura con una sentenza del 2003 e adesso mi sembra che questa apertura tenda a consolidarsi con l'ultima sentenza del 2010. Del resto, come sta accadendo in altri paesi europei, per esempio in Spagna, dove anche lì ci sono sentenze recenti del Tribunale Costituzionale, ma non solo. Allora, questa sentenza del 2010 riguarda la nuova legge elettorale della Regione Campania, che è la numero 4 del 2009. Voi sapete che le regioni, adesso mi riferisco alle regioni ordinarie, dopo la riforma del titolo quinto del 2001, possono darsi la loro legislazione elettorale con una potestà di tipo concorrente, cioè nell'ambito di alcuni principi fissati dalle leggi dello Stato. Ora, nella legge elettorale della Regione Campania, che è una legge elettorale fondata di tipo proporzionale, quindi con liste di partito, ecco perché forse va detto prima che queste misure di garanzia delle candidature sono molto ritagliate sui sistemi di tipo proporzionale, è molto difficile invece utilizzarle nei sistemi di tipo uninominale maggioritario. Non che non sia possibile, sono state anche sperimentate delle forme, per esempio in Gran Bretagna, però è universalmente riconosciuto che i sistemi con liste di partito poi possono anche avere clausole di sbarramento, premi di maggioranza, quindi avere anche degli effetti maggioritari, però che come base hanno una struttura di tipo proporzionale, consentono, se ben utilizzati, un'elezione di un numero circa doppio di donne, rispetto ai sistemi uninominali maggioritari. Allora, ci sono alcune norme interessanti in questa legge della Regione Campania. Per esempio, si dice, c'è un articolo 10 che proprio riguarda la rappresentanza di genere, e si dice che in ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 dei candidati. Vi faccio notare che questa non è un'azione positiva, ma è una norma antidiscriminatoria, perché vedete com'è formulata: nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 dei candidati, il che significa, oggi nelle condizioni date evidentemente si applica alle donne, ma teoricamente potremmo persino immaginare che fra qualche tempo si possa applicare agli uomini, perché non è un trattamento preferenziale, come sono le azioni positive, rivolto a un gruppo sociale svantaggiato, ma è una regola antidiscriminatoria. Quindi le liste che vengono presentate dai partiti, in queste liste un solo sesso, un solo genere, non può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3. Se la lista non rispetta questa percentuale, non è ammessa alla competizione, quindi la sanzione è estremamente, è la più grave in assoluta, è l'inammissibilità della lista. Voi sapete che ci sono anche altri tipi di sanzione, per esempio quella sperimentata in Francia per l'elezione dell'Assemblea Nazionale, che però è un sistema uninominale, che è una sanzione di tipo economico-finanziario. Adesso l'hanno anche un po' elevata, però sostanzialmente i partiti pagano e candidano chi vogliono, quindi la sanzione finanziaria conta poco. La vera sanzione temuta è la dichiarazione di inammissibilità della lista. Del resto lo stiamo vedendo in questi giorni, che cosa succede quando una lista non è ammessa alla competizione. Insieme a questa norma ce n'è un'altra molto interessante, che è proprio quella poi che è stata impugnata davanti alla Corte Costituzionale, sulla quale la Corte si è espressa. Si possono esprimere fino a due preferenze, l'elettore può esprimere al massimo due preferenze. Nel caso però, quindi è libero di non esprimere preferenze, di esprimere una sola preferenza o di esprimerne due. Nel caso che ne esprima due, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza, quindi la cosiddetta doppia preferenza di genere. Poi c'è ancora un'altra norma che vi voglio ricordare, che è interessante perché non riguarda la composizione delle liste ma riguarda la campagna elettorale. E dice che i soggetti politici, quando ci sono le elezioni regionali, i soggetti politici, quindi in particolare i partiti, devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, i messaggi autogestiti. Quindi, diciamo, norme di parità anche nell'ambito della campagna elettorale vera e propria, non solo nell'ambito della composizione delle liste. Ora, questa norma, non quella antidiscriminatoria, cioè che prevede che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, e neanche quella della presenza paritaria nella campagna, ma quella della doppia preferenza di genere, è stata impugnata dal governo davanti alla Corte Costituzionale. Cioè, in sostanza, il governo ha lamentato che questa norma fosse in contrasto con il principio di eguaglianza tra i candidati, e anche che andasse a vincolare la libertà di voto dell'elettore garantita dall'articolo 48 della Costituzione. La Corte Costituzionale ha respinto questa impugnativa del governo e ha ritenuto che la norma fosse pienamente conforme alla Costituzione. Quindi questa modalità, ecco, perché questo c'è da dire, sia l'articolo 51 che prima vi ho letto, sia il 117 Costituzione che riguarda il livello regionale, non dice quali strumenti devono essere utilizzati, pone delle finalità di riequilibrio, di promozione. È chiaro che poi è il legislatore che deve individuare, il legislatore statale e regionale, e regionale, che deve individuare gli strumenti. È chiaro che non tutti gli strumenti sono compatibili con la Costituzione, quindi adesso si tratta di vedere quali strumenti lo sono e quali no. Allora, la Corte nel 2003 ci aveva già detto che le norme discriminatorie, le norme antidiscriminatorie possono essere utilizzate. Quindi non a caso questa volta il governo non ha impugnato la norma antidiscriminatoria, perché qui c'era già una presa di posizione della Corte e sapeva che avrebbe perso. Ha impugnato la modalità nuova, cioè ogni volta che c'è una modalità nuova il governo automaticamente la impugna. Torno un attimo indietro. Nel 2003 il governo, che era sempre un governo di centrodestra, aveva impugnato una norma della legge elettorale della Valle d'Aosta, quindi una regione d'autonomia speciale, nella quale semplicemente si diceva che le liste non possono essere composte da candidati di un solo genere. Cosa significa? Che basta anche una sola donna, quindi non è nemmeno, cioè è una misura minima quasi simbolica, però il governo l'aveva impugnata. E perché? Secondo me perché c'era la sanzione dell'inammissibilità della lista anche lì. Quindi quello che fa paura è la modalità della sanzione. La Corte in quell'occasione aveva risposto che la norma non era in contrasto con la Costituzione, che non incideva in alcun modo sul diritto di elettorato passivo, perché non incideva sulle condizioni di candidabilità, ma semplicemente poneva un vincolo a carico dei soggetti che presentano le liste, che sono normalmente i partiti, e diceva la Corte, i partiti hanno tante regole che devono essere rispettate nel momento in cui presentano una lista, e una di queste regole adesso, alla luce dell'articolo 117 del nuovo quadro costituzionale, eccetera, è anche quella della finalità di riequilibrio della rappresentanza. Quindi non c'è nulla di incostituzionale nel vincolare i soggetti presentatori delle liste a rispettare delle regole antidiscriminatorie. Questa volta, quindi, il governo ha impugnato solo quella parte che riguarda la doppia preferenza di genere. La Corte che cosa dice? Intanto osserva che la finalità di questa regola elettorale è quella di ottenere un riequilibrio della rappresentanza politica dei due sessi all'interno del Consiglio regionale, pienamente in linea con l'articolo 51 Costituzione come modificato nel 2003 e con l'articolo 117 settimo comma in materia regionale. E poi fa un'osservazione di carattere, come dire, se vogliamo, sociologico, di presa d'atto della realtà. Dice la Corte: preso atto della storica sottorappresentanza delle donne nelle assemblee elettive, non dovuta a preclusioni formali incidenti sui requisiti di eleggibilità, ma a fattori culturali, economici e sociali, i legislatori costituzionale e statutario, cioè degli statuti regionali, indicano la via delle misure specifiche volte a dare effettività ad un principio di eguaglianza astrattamente sancito, ma non compiutamente realizzato nella prassi politica elettorale. E poi, dice la Corte, i mezzi per realizzare questa finalità possono essere di diverso tipo e devono avere una serie di caratteristiche. Certamente non devono diminuire il diritto di elettorato passivo, ma non devono neanche incidere sulla libertà di voto dell'elettore, non devono incidere sulla parità di chance tra i candidati all'interno delle liste e nemmeno tra le liste, tra parità di chance tra le diverse liste. E questi sono, come dire, tutti i criteri che la Corte aveva già enucleato nella sua giurisprudenza precedente. Quindi, dice, detto questo, ci si deve chiedere se la norma censurata sia in contrasto con questi principi. No, non è in contrasto. Infatti, l'espressione della doppia preferenza è meramente facoltativa. Ve lo dicevo prima, io posso anche non dare preferenze, ne posso dare una sola, se ne do due, devono essere a due generi diversi, altrimenti la seconda viene invalidata. Quindi, dice la Corte, non è in alcun modo, come dire, limitata la libertà di voto dell'elettore, anzi è una facoltà aggiuntiva, cioè si dà una possibilità di scelta in più all'elettore. Se l'elettore decide di avvalersi di questa possibilità ulteriore, c'è una regola antidiscriminatoria che è perfettamente in linea con quanto richiesto dagli articoli 51 e 117 della Costituzione. Quindi, dice la Corte, si tratta di una misura promozionale e non coattiva e oltretutto non è in alcun modo idonea a prefigurare un risultato elettorale o ad alterare artificiosamente la composizione della rappresentanza consiliare. Non è una garanzia di risultato, è una possibilità in più che viene data alle donne di essere candidata, agli elettori di scegliere anche una candidata donna. E quindi, poiché è una norma riequilibratrice che non è coattiva, che non incide sulla, diciamo sulla libertà di voto degli elettori e che non incide neanche sul diritto di elettorato attivo e passivo, è una norma pienamente compatibile con la Costituzione. Infatti, dice la Corte, non vi sono candidati più favoriti o più svantaggiati rispetto ad altri, ma solo un'eguaglianza di opportunità, quindi non di risultato, particolarmente rafforzata da una norma che promuove il riequilibrio di genere nella rappresentanza consiliare. e conclude dicendo che deve essere superata la situazione esistente che presenta un vistoso squilibrio di genere nella rappresentanza, sia nella regione Campania, sia più in generale nelle assemblee elettive della Repubblica Italiana. Quindi fa un riferimento anche al Parlamento. E a questo proposito io qualche numeretto ve lo volevo anche dare, molto aggiornato, sul sito dell'Unione Interparlamentare ogni paio di mesi vengono aggiornati queste classifiche. Ora, al 31 gennaio 2010, questa è la classifica della presenza di donne nei parlamenti del mondo, noi ci troviamo al 56esimo posto, pari merito con la Cina. E nei primi posti noi troviamo, oltre a Ruanda, che ha un sistema di quote molto rigido, parliamo dei paesi europei, la Svezia, l'Islanda, l'Olanda, la Finlandia, la Norvegia, il Belgio, la Spagna, la Germania, si trovano tutte nei, diciamo, nei primi 20 posti e l'Italia è al 55esimo posto. E anche all'interno del Parlamento europeo, tra i 27 stati membri del Parlamento europeo, noi ci troviamo al 24esimo come presenza di donne e dopo di noi ci sono solo Polonia, Repubblica Ceca e Malta. Quindi diciamo che le parole della Corte non sono parole azzardate, ma sono e se andiamo a vedere i consigli regionali come sono adesso sulla base delle elezioni svoltesi nel 2005, c'è una rappresentanza, adesso non vorrei dire sbagliato, comunque sicuramente sotto il 20%, intorno al 12% forse, considerando una media tra tutti i consigli regionali, poi naturalmente ci sono differenze tra i vari consigli. Quindi queste modalità possono essere utilizzate. Certamente ogni volta è possibile che saranno scrutinate dalla Corte, perché ritengo quasi certo che si vada a finire davanti alla Corte, però la Corte Costituzionale comincia a dare delle indicazioni molto precise. E se ho un momento di tempo, poi veramente chiudo, volevo anche citarvi due ordinanze del TAR Puglia che riguarda la composizione della giunta comunale. Ora, una riguarda il comune di Molfetta. E l'articolo 37 del comune di Molfetta dice che il sindaco nella nomina della giunta deve adoperarsi per favorire la rappresentanza di entrambi i sessi all'interno di questo organo. Qui avevamo una giunta tutta maschile e il Tribunale amministrativo ha annullato il provvedimento di nomina della giunta dicendo che dovevano essere rinnovate le nomine. E che, questa è una delle modalità un po' più soft, se il sindaco non è in grado per una qualche ragione di nominare degli assessori donna, deve darne però motivazione, una motivazione dei provvedimenti di nomina dei vari assessori che deve illustrare le ragioni che impediscono l'attuazione del principio di pari opportunità. Quindi come minimo c'è un obbligo di motivazione che comunque è fastidioso. Perché io vi assicuro che quando sono stata consultata per inserire una norma di questo tipo nello statuto della provincia di Ferrara, ci sono voluti molti mesi, forse anni, e poi chi era contrario si è, diciamo così, convinto quando gli ho fatto vedere la giurisprudenza dove si diceva ma non è un obbligo, diciamo, inescapabile, ma presenta solo una necessità di motivazione. Però già dare una motivazione, perché in un comune molto piccolo può anche darsi, ma in una provincia, per esempio, o in un comune molto grande con milioni di abitanti, è un po' difficile motivare il fatto che non ci sia neanche una donna disponibile a fare l'assessore, quindi dà fastidio. L'ultima che vi volevo segnalare è un'altra ordinanza, sempre del TAR per la Puglia, sezione prima, Lecce, qui era il comune di Maruggio, e in questo caso però è molto più rigido il TAR, perché dice che l'articolo 53 dello statuto del comune di Maruggio ha natura precettiva e non programmatica, cioè quella in cui si dice condizioni di pari opportunità fra uomini e donne con la presenza di entrambi i sessi nella composizione della giunta. Dice il TAR, non è sufficiente un semplice sforzo, tra virgolette, teso a raggiungere un simile risultato. Si tratta di una tipica obbligazione di risultato e non di diligenza, che viene ad integrare un vincolo alla scelta degli assessori e che non può essere derogata da accordi politici. E dice, alla fine, l'applicazione della previsione statutaria non trova ostacolo nel fatto che le due donne presenti in consiglio comunale abbiano declinato l'offerta di entrare a far parte della giunta per motivi personali. La presenza in giunta di assessori di entrambi i sessi può infatti essere assicurata anche attraverso il ricorso alla possibilità di nominare esterni al consiglio comunale prevista dalla normativa e dalla già citata previsione dello statuto. E quindi si annulla la delibera di nomina e si ordina al sindaco di Maruggio di procedere all'integrazione della giunta comunale attraverso la nomina di assessori di entrambi i sessi entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione di questa ordinanza. Quindi vedete che comincia, diciamo pur lentamente, a esserci anche un quadro normativo che consente interventi di questo tipo. Poi naturalmente possiamo avere diverse idee sia sulla loro efficacia sia sulla loro opportunità. Ma questo poi lo lascio eventualmente al dibattito e vi ringrazio. Maruggio è sempre in Puglia. Sì, sì.